wa idzal biharu fitayuni baharuji din sujjirat lihubama ido baharuji dihuboite difumajidi wonta yite donc di de ngandi haray ko hunde hulbininde de tawde haray ka wonden do dido leydi ndi wonden e mudum ndiyan dan buri durude di njorni ndim leydi do si di wadama fecce tati fecce ridi je dem fop haray ko ndiyan ko fecce re woter den don woni ko jama woni e hore mudum woni njorni ndim ko jama o hodi e hore mudum ko amade fecce di gal fu ko ndiyan ido baharuji tuma non de di huppa di wonti yite a don haray hubini keketi wa yizal biha rusiba harujidin sujjirat lihu bitama.